X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Oggi sono 100 anni dalla nascita di Giorgio Almirante. Questa è la sua ultima intervista prima della morte. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 SMS. Giorgio Almirante, nato a Sasso Maggiore da famiglia siciliana, segretario quasi eterno dell'MSI, si laurea a lettere a 23 anni, ma già a 17 scrivi sul Tevere di Telesio Interlandi, l'apostolo italiano del razzismo hitleriano. Nel 40 va come volontario corrispondente di guerra in Africa, torna con una croce al valor militare. Il 25 aprile del 43 però i suoi colleghi lo cacciano dal giornale, torna a fare il soldato. I tedeschi lo arrestano e lui aderisce alla Repubblica di Salò, diventa il capo di gabinetto del ministro Mezzasoma. Dopo la fine dell'avventura di Salò, 2 anni di clandestinità con il nome di Giorgio Alloni. Torna in pubblico, entra in politica, fonda con altri il Movimento Sociale e nel 47 è il primo segretario nazionale. Nipote di attore, calciatore dilettante da giovane, ama la cucina genovese, adora Dante Pirandello, è uno degli eterni della politica italiana. Occhi azzurri tra l'ammiccante e il tagliente, sa essere mellifluo e insultante, misuratissimo e demagogo, gli strumenti oratori li conosce tutti. All'inizio ha teorizzato lo scontro frontale col sistema, poi si è calmato, ma ha sempre oscillato, dicono, tra la moderazione vellutata e l'oltranzismo violento. Ha resistito a tutti e a tutto, passando attraverso scissione e tentati golpi interni. Eppure proprio lui nel 47, mentre lo facevano segretario, disse, diceva, fanno me perché sono il più scalcagnato di tutti. Allora, onorevole Almirante, il più scalcagnato di tutti, gli altri allora com'erano? No, gli altri non erano affatto scalcagnati, erano meno resistenti. Ma qual è stato l'avversario più duro all'interno del suo partito? Mi dispiace parlare di avversari perché fra l'altro non sono più al mondo. Sono stato in pesante ma non personale polemica per molti anni con l'allora segretario onorevole Michelini, ecco, al quale voglio un sacco di bene. Ecco, a proposito di Michelini, nel 63, a conclusione di un congresso del suo partito che aveva confermato Michelini segretario, lei lo insultò gridandogli antifascista. Cosa aveva fatto di così orribile? No, io non ricordo di aver dato dell'antifascista a nessun fascista. E Michelini non meritava certamente quell'eventuale insulto. Mi fa piacere che lei lo consideri un insulto. Perché lei di sé dice sono fascista? Anzi, la parola fascista ce l'ho scritta in fronte e più di così non potrei esserlo. Esattamente cosa vuol dire? È la verità. Vuol dire che non sono mai stato obbligato a diventare fascista, a continuare ad essere fascista nei tempi buoni e felici in cui essere fascista poteva rappresentare una comodità o un vantaggio. Sarebbe veramente vergognoso che una volta che il fascismo non rappresenta più un vantaggio ma uno svantaggio, qualche volta un pericolo, un rischio, comunque sarebbe vergognoso da parte mia non insistere. Onorevole Almirante, ma è vero che il suo vero modello politico è il ministro Mezzasoma che morì con Mussolini? È il mio modello umano Mezzasoma, l'uomo più sano, più pulito, più ferventemente e pulitamente cattolico che io abbia mai conosciuto. Ecco, ma essere... un uomo che ha saputo morire. Onorevole Almirante, essere fascista per lei in due parole cosa vuol dire? In due parole, credere nella triade Stato, Nazione, Lavoro, con libertà e nella libertà. Senta, comunque, certamente vuol anche dire non essere democratico. Se è vero come è vero che lei ha detto democratico è un aggettivo che non mi convince. Ecco, che cosa non la convince? Vuole leggere per cortesia i resoconti di tutti i giornali. E questo l'ha detto a Gianna Preda. I resoconti di oggi, di tutti i giornali, nessuno escluso, che descrivono la situazione di Montecitorio. Io non parlo di aula sorda e grigia, per carità, parlo di aula vile, vile e incapace. Ecco, se però... questa è la democrazia, io democratico non sono, e in Parlamento so stare senza cedere ai suggerimenti, alle tentazioni della falsa democrazia. Però è certo che il 12 settembre del 73, il giorno dopo il golpe di Pinochet in Cile, lei in un discorso incendiario invocò anche per l'Italia una soluzione tipo cilena. Se lo augura sempre, no, anche assolutamente adesso. No, non è pensabile, manca l'uomo, manca il clima a livello interno e a livello internazionale. Quindi è solo un peccato? No, non è un peccato affatto, in un determinato momento politico un uomo politico può esprimersi come crede, ma nulla intacca da 40 anni a questa parte la mia fede nella libertà. Però non arriva dall'ignorante, ma secondo lei Pinochet è fascista o no? No, Pinochet è un dittatore. E basta? E basta. Senta, ma quanto conta la divisa nel look di un dittatore, secondo lei? È la divisa? No, dicono che io sia un uomo ben vestito, il merito è tutto di mia moglie, l'unica divisa che io porto è quella che mia moglie gentilmente mi predispone. Ecco, volevo dire, ma allora quando le è venuto l'idea del doppio petto? Voglio dire, un'idea sua oppure appartiene... No, il doppio petto mi è stato attribuito, non ho mai pensato. Ma appartiene alla storia della destra oppure una sua idea, una sua invenzione? La storia della destra è una cosa seria, il mio doppio petto è una cosa meramente marginale. Onorevole Almirante, lei del suo passato rifiuta qualcosa oppure in lei, come dire, c'è l'accettazione? La mia formula è non rinnegare, non restaurare. Quindi io non rinnego nulla del mio passato, il che non vuol dire che io ripeterei il mio passato in tutti i suoi particolari. Ecco, mi dica una cosa che non farebbe di sicuro. Una cosa che non farei di sicuro è usare violenza contro un avversario politico. Perché l'ha fatto? No, non l'ho fatto. Ma no, voglio dire una cosa che non farebbe di quelle che ha fatto. No, e non l'ho fatto, quindi io potrei ripetere tutto quello che ho fatto senza pensare. Ma quindi allora non c'è qualcosa che non rifarebbe? Non rifarei quello che potevo fare in regime fascista, obbligare altri a portare una certa divisa, negare la possibilità di critica. Qualche volta può darsi. Quindi che non eserciterebbe quella violenza che ha usato in qualche modo. Ma non ho usato alcuna violenza. Senta, tornando al problema della democrazia, il suo numero due vero o presunto, Pino Rauti, ha detto testualmente: noi siamo contrari alla democrazia parlamentare in linea di principio, per questioni ideologiche, perché non crediamo all'uguaglianza degli uomini, noi crediamo alla differenza. Lei è d'accordo? No? Io non sono d'accordo nella forma, ma sono d'accordo nella sostanza, cioè sta per nascere la Seconda Repubblica, bisogna dare luogo ad una nuova Repubblica, la Repubblica è fallita, la Costituzione è nata dalla resistenza. Ma qui si parla di differenza degli uomini, di negare l'uguaglianza. No, negare l'eguaglianza degli uomini io certamente non la approvo, non quindi lo condivido, questo non lo sento. Ma è vero che Pino Rauti è il numero due del partito? Certo, ma perché non convoca Pino Rauti in una conversazione? No, lei è il segretario, glielo posso chiedere. Io non amo parlare a nome degli altri. No, ma a nome suo, voglio dire, chi è il suo successore? No, io non lo so. Pensa di lasciare o no? Mi dica una cosa vera. Io penso di lasciare. Pensa? Penso di lasciare. Allora in mente un erede non ce l'ha? Non ho in mente un erede perché non sono monarchico né seguo l'istituto monarchico. E uno che possa aspirare? Tutti. Va bene. Onorevole Almirante, lei spesso dice che nel suo partito ci sono dei piccoli ducetti. Vuol dire che lo stile mussoliniano oggi è da rifiutare nell'MSI? No, lo stile mussoliniano non è ripetibile, diventa ridicolo. E ce ne sono molti nel suo partito? Ce ne sono in tutti i partiti, ci sono anche alla testa di... Guardi Craxi, so che lei è in buoni rapporti con l'onorevole Craxi. Sì, più lucetto di così, e non sono io che lo dico, è Forattini che lo dice nelle sue veramente splendide caricature. Ecco, ma a lei dispiace che Forattini non si occupi di lei nella sua caricatura? Ma se ne è occupato di me, però Forattini non riesce a caricaturarmi perché io sono un tipo ormai alla moda così. Ecco. Senta, ma lei di Mussolini che ricordo ha? Ho un tenero ricordo. Cioè? Una telefonata. Era il giorno in cui, me lo lascia dire in poche parole, era il giorno in cui gli alleati stavano entrando in Roma, se non erro 4 giugno del 1943. Io come capo di gabinetto del Ministero della Cultura Popolare avevo le notizie attraverso le nostre stazioni di intercettazioni, allora non c'era la televisione, intercettazioni radio, e quindi potevo seguire le notizie via via che esse si svolgevano, e Mussolini telefonava, non a me personalmente, al Ministero per sapere le notizie. Quel giorno telefonò a me personalmente. E cosa si metta nei miei panni, io giovanissimo, per me Mussolini era tutto, io tremavo quando mi dicevano il Duce al telefono, il Duce al telefono. La sua telefonata fu dura, tagliente, la prima: Almirante, che notizie mi date? E gli diedi le notizie. Poi una seconda telefonata dopo un'ora: Almirante, che notizie mi date? E io gli diedi le notizie. Una terza telefonata: Almirante, quali sono le notizie? E poi: posso chiamarvi ancora? Quel posso chiamarvi mi aprì una voragine, una voragine di disperazione e di tenerezza. Senta, ma al tempo stesso. Ma c'è qualcuno nella vita politica che glielo ricorda? No. Nessuno. Senta, ma secondo lei come si comporterebbe oggi, se si può immaginare, Mussolini nell'Italia politica di oggi, in una battuta? E se Mussolini fosse arrivato ieri nel Parlamento italiano avrebbe preso anche fisicamente forse a calci tutti quanti, noi compresi, per essere lì in quella Senta, borgia. L'onorevole De Mita, lei l'avrà sentito, ha detto che quella italiana è una situazione prefascista, lei è d'accordo? Io credo che De Mita sia l'esempio più lontano da ogni possibilità di accostamento con la parola fascista, nel bene e nel male. No, ma lui parlava della situazione, che la situazione... Della situazione, ma quando uno parla della situazione non è credibile. Onorevole Almirante, che cosa le piaceva di meno di Mussolini? Beh, forse gli stivaloni. Beh, avrà avuto anche qualche difetto lui, immagino, anche per lei. No, per carità. Me ne dica uno. Non ho detto era immune. No, me ne dica uno. Era solo. È un difetto? Sì. Perché? E non è soltanto il destino, è anche l'indole, il temperamento che porta alla solitudine. E il suo di peggior difetto qual è, onorevole ammirante? Il mio è che sono troppo poco solo, è proprio all'opposto. Parlando dei suoi difetti, invece, la giornalista Gianna Preda, con molta cattiveria, ha scritto: da quando Almirante ha i soldi, le donne e le scarpe di coccodrillo giallo, che non vedo oggi, no, però, si è montato la testa. È vero, si è montato la testa. Prima di tutto momento. I soldi, francamente, non lo dice li ho. Lei, no? Ecco, lo ha detto, poverino, sì. Non c'è più, quindi non rispondo polemicamente in senso di rispetto per una... Senta, ma allora diciamo così, a proposito di donne, l'amore è stato importante nella sua vita? Molto. C'è, come dire, una donna ideale, una donna... Guardi, non lo dico per convenzione, mia moglie. Non lo dico ma un ideale di donna, a parte sua moglie, diciamo, nelle grandi personaggi femminili della sua giovinezza o della sua personaggi viventi o no, insomma, nella mia fantasia, non so, qualche fantasia. Beh, Madame Roland. Io perché? Sono perché il più bel libro che sia stato scritto, secondo me, è l'Histoire des Girondins di Lamartine. Senta, e lì campeggia questo personaggio straordinario di donna, quando la portano al patibolo e dice: oh libertà, quanti delitti si compiono in tuo nome. Io penso ai delitti che sono stati compiuti in nome della libertà in Italia, dall'una e dall'altra parte. Senta, ma parlando invece di attrici? Parlando di attrici, beh, la mia preferita era Brigitte Bardot. Onorevole Almirante, quali sono le qualità principali che lei cerca in una donna? Beh, io cerco il senso in una donna e cerco la capacità di essere amica e al tempo stesso, se capita questa fortuna, moglie e al tempo stesso serena ispiratrice. Lei, se non sbaglio, è stato sposato due volte, no? Sì. Cioè si è divorziato e poi è risposato? Sì, sono divorziato e sposato. Ecco, questo non ha impedito però di fare la battaglia contro il divorzio. Non ha avuto problemi di coerenza? Non ho avuto problemi di coerenza perché ero nel partito in minoranza nel sostenere la tesi opposta, però ho convocato a suo tempo una riunione, sono rimasto in minoranza 16 contro, uno solo a favore, e ho dichiarato che mi rimettevo alla volontà del partito. Ecco, ma lei la rifarebbe quella battaglia? No, non la rifarei, no. Ecco, lei però, alcuni anni prima del referendum sul divorzio, a un settimanale francese per soli uomini, lui aveva dichiarato: noi non siamo affatto contrari al divorzio, siamo favorevoli a tutto ciò che concerne la libertà sessuale dell'uomo e della donna. Che cos'è che le ha fatto cambiare idea però dopo? No, ripeto, io non ho cambiato idea. Ho sempre pensato che la legge sul divorzio fosse opportuna e che non bisognava sopprimerla. Però, come le ho spiegato, mi sono rimesso alla volontà del partito. Non lo avrei fatto per altri problemi che avessero toccato più profondamente la mia intimità, la mia persona. Ecco, lei sempre in quell'intervista, però, parlando di pornografia, di escalation della pornografia nel cinema in particolare, disse che lei era d'accordo perché, cito testualmente, la nostra liberalità ci conquista le simpatie degli intellettuali che avevano creduto che le libertà si trovassero solo a sinistra, lo confermo. Non ho mai scritto, fatto dichiarazioni di questo. Questa è un'intervista a lui del 72. Ma appunto lei mi ha detto intervista per soli uomini, no, un giornale un per soli uomini. Francese. Giuro, non mi ricordo. Beh, assolutamente. Glielo manderò. Però se lei ha la bontà di riconoscermi un certo stile, una certa capacità, certo, di esprimermi, quella frase evidentemente è artefatta, non è mia. Comunque, questa era scritta, io comunque, l'ho poco, riportata poco come tale, non è mai stata smentita, voglio poco dire. Poco importa. Onorevole Almirante, lei spesso parla della necessità di un'alternativa di destra in, sì, Italia. Ecco, con chi vorrebbe farla, in due parole? No, io vorrei farla nel quadro di una nuova Costituzione della Repubblica, cioè fino a quando le cose non cambiano, le regole del gioco non cambiano, un'alternativa di destra evidentemente non può realizzarsi, perché la mia opposizione, la nostra opposizione non è nei confronti di un governo, è nei confronti di un sistema tutto intero. Una volta che si sia realizzato, che si cammini verso la nuova Repubblica, e allora il nostro ruolo diventa via via più importante. Ma quando vi dicono che siete la ruota di scorta della Democrazia Cristiana, lei è la più risponde? Grossa imbecillità che si possa Perché? Dire. Perché? Perché è vero il contrario. L'avvocato Agnelli ha detto che sia pure con calci negli stinchi e poi dita negli occhi durante la campagna elettorale, dopo l'elezione, secondo lui, ci risarà di nuovo il pentapartito. Ecco, lei cosa pensa? Agnelli farebbe bene a non uscire dal campo di calcio prima che la Juventus abbia vinto, sono juventino, e farebbe anche bene a occuparsi soltanto di pallone e di Fiat, naturalmente. Io non mi occupo di Fiat, mi occupo di politica. E quindi lei pensa che... E penso che abbia detto delle cose. Senta, lei non è mai stato tenero con la giustizia italiana. Perché, se non sbaglio, lei era contrario al referendum? No, ai referendum non sono affatto contrario. All'istituto referendario sono estremamente favorevole. Quanto a quei referendum, io sono favorevole ai referendum sulla giustizia e anche in parte a quelli sul nucleare. E devo dire che nei confronti della magistratura non mi permetto di esprimere giudizi, però io ho avuto delle esperienze che nei confronti di taluni magistrati sono estremamente pesanti per me. Io ho aspettato 7 anni prima di avere giustizia dalla giustizia, ecco, io... a proposito di Almirante il Fucilatore e via dicendo. Ecco, io vorrei chiederle, sempre restando in tema di giustizia, lei è uno di quelli che hanno sostenuto in modo fiero e determinato la teoria delle stragi di Stato, cioè ha sempre sostenuto che furono i servizi segreti a orchestrarle. Lo pensa sempre? E lo penso di più, perché in queste ultime settimane ho cercato di seguire le vicende relative al terrorismo e ai processi, e devo dire che le mie accuse nei confronti dei servizi segreti crescono di peso ogni giorno che passa. Ecco, però resta un fatto che gli uomini più in vista dei servizi segreti di allora sono finiti, non tutti ma molti, eletti nelle liste dell'MSI, cito Miceli all'Avena, per non parlare di De Lorenzo. Lei cita, ecco, Miceli. Come mai? Miceli è stato in galera per 6 mesi, carcere preventivo, e poi è stato prosciolto con formula piena. E quando è venuto nel Movimento Sociale Italiano, questa vicenda si era già svolta, era dietro le sue spalle, è entrato da noi come perseguitato dalla giustizia. All'Avena e De Lorenzo anche. All'Avena non è nel Movimento Sociale. Era nelle liste. Onorevole Almirante, è tornato in Italia uno dei protagonisti della strategia della tensione, Stefano Delle Chiaie, che in un'intervista all'Europeo ha dichiarato apertamente di aver ricevuto da lei soldi e finanziamenti durante la latitanza. Lei lo conferma? A successiva domanda ha risposto che i soldi arrivavano tramite un intermediario di cui non ha fatto il nome. Sì. È anche troppo evidente che ha detto cosa menzognera, perché da quindi me non ha mai ricevuto. Lei lo nega? Nego assolutamente di aver mai dato finanziamenti. Ma che rapporto aveva lei con Delle Chiaie? Il mio rapporto con Delle Chiaie ha avuto luogo fino a quando Delle Chiaie è rimasto nel Movimento Sociale Italiano, cioè, se non sbaglio, fino al 1956, non ricordo bene. E poi non l'ha mai più visto? Ma non l'ho più mai visto. Avuto più nessun non rapporto? Non l'ho più visto, più nessun rapporto. Delle Chiaie dice di avere anche lui un suo libro bianco. Secondo lei chi deve aver paura delle eventuali rivelazioni di Delle Chiaie? I servizi segreti, la cosiddetta giustizia di Stato, non certamente io. Lei non ha paura? No. Assolutamente. Assolutamente. Glielo chiedo perché nel giugno del 74 l'ammiraglio Birindelli, che era presidente dell'MSI allora, si dimise dicendo che troppi fatti macchiavano il suo partito. Gli elencò testualmente: bombe alla Fiera di Milano, strage di Piazza Fontana, golpe borghese, rosa dei venti, strage di Brescia, strage dell'Italicus. Lei deve farmi la cortesia di permettermi di ricordare che il Movimento Sociale Italiano ha subito una scissione pesantissima, promossa, come fu detto e ripetuto, da ambienti politici vicini ad un certo settore della Democrazia Cristiana, con l'aiuto dei servizi segreti di Quale tutti coloro. Quale settore della Democrazia Cristiana? Il settore fanfaniano allora era molto vicino a taluni fra coloro che abbandonarono, tradendo la loro missione, il Movimento Sociale Italiano. Ora, uno dei protagonisti di quell'evento fu esattamente il personaggio che lei ha citato. Io mi permetto di rispondere con il massimo disprezzo nei confronti di quel personaggio e di tutti coloro che ci hanno e mi hanno pugnalato alla schiena. Onorevole Almirante, lei viene da una famiglia di attori. Sì. Quanto le è servita l'esperienza del palcoscenico nella vita politica? Immensamente, soprattutto il mio povero zio Gigi, Gigetto Almirante, allora famoso interprete di Pirandello, il quale quando lo andava a trovare in camerino mentre si truccava diceva: Giorgino, vai a vedere se c'è gente. E io correvo al palcoscenico, il teatro si stava riempiendo e gli davo le buone notizie. E una volta gli chiesi: ma zio, perché? E disse: perché verrà il giorno in cui il teatro sarà vuoto e io devo è la paura che anche lei e io devo prepararmi a uscire in punta dei piedi. Non è la paura, è la prospettiva di ogni uomo che affida a se stesso un compito nel quadro consentitogli. Ma quanto deve del suo successo di leader a questa sua esperienza, a questo suo rapporto in qualche modo col teatro e quindi alla sua capacità oratoria che riconosce? Io credo molto, a prescindere dalla capacità oratoria, proprio. Vabbè, questa è riconosciuta. Sono uomo di palcoscenico, non sono uomo di anticamera. Chi è stato suo maestro dal punto di vista oratorio? Se c'è stato un maestro, un modello? No, non c'è stato un maestro, non sono mai andato a scuola di recitazione, la consiglierei a qualcuno, ma io non... A chi la consiglierebbe? Un uomo politico che ho già nominato in precedenza. Onorevole Almirante, a proposito di uomini politici, mi dà un giudizio, uno l'ha già dato, sui leader politici concorrenti dal punto di vista dell'efficacia, proprio solo dell'efficacia del linguaggio? Mi interesserebbe, lei che è riconosciuto come uno dei bravi, faccia una pagella. Ma facciamo un po' una pagella. Pagella a seguito proprio delle riunioni ultime della Camera dei Deputati, e darei un 8, forse un 9 a Fanfani, che poi è stato molto bravo proprio per motivi di stile, di capacità di esprimersi alla toscana ma con contenuti solidi. Poi? E all'estremo opposto metto il solito De Mida e per i contenuti e per, voti, il modo, e per il modo ci metto anche Craxi. L'arroganza non paga e non si può scambiare l'abilità, la capacità con l'arroganza. È stato eccessivo in questo caso. Ma lei di far l'attore non l'ha mai pensato? No, ci ho pensato e ci ho pure provato. Quando ero studente universitario c'era un piccolo gruppo di studenti che volevano recitare, abbiamo anche recitato, fu un fiasco per quello che mi riguardava, perché non sapevo dove mettere le mani. Sì. Per quello ho preferito la politica. Ho preferito la politica perché si sa, purché si sappia si sa dove mettere le mani. Purché si sappia dove si mettono le mani. Senta, lei lo sanno tutti, l'ha detto anche prima, è appassionato di calcio e se non sbaglio ha anche Juventino, giocato. Juventino, sì. Ecco, Juventino, ma secondo lei... All'ala sinistra ho giocato, all'ala malissimo. Sinistra. Ecco, ma secondo lei chi è stato il più grande calciatore di tutti i tempi nel dopoguerra? Io ricordo Orsi e prima di lui Hirzer, ma ero ragazzino io, e fra gli ultimi? Lei non era nato, e poi Platini. Le volevo fare un'ultima domanda, onorevole Almirante, ma se lei non fosse stato Giorgio Almirante, chi avrebbe voluto essere? Beh, veramente non lo so, non so chi avrei voluto essere. Perché sono contento di essere quello che sono, non per il successo conseguito, ma per la capacità di prevedere il momento del mancato successo, per la capacità di entrare e di uscire dalla scena. Con la mia capacità in prospettiva, ne sono certo, saprò uscire dalla scena, e quando un uomo è certo di poter dire come finirà sul terreno morale, anche sul terreno direi fisico, allora è un uomo destinato ad essere contento di sé. Allora Mario, che titolo faresti del faccia a faccia, l'ultimo fatto da Giorgio Almirante prima di morire? Altri tempi. Tu, Pietrangelo? Il titolo di sempre: noi possiamo guardarvi negli occhi. Beh, io prego i nostri ascoltatori, che ci scrivono molti, però quasi nessuno si firma. Allora, insulti e complimenti li vorremmo firmati. Grazie. Mix 24. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non sarebbe? Che la notte è scivolata via e ha lasciato sulla punta del naso tutti i segni attesi. Oggi è venerdì e tra domani e dopodomani si leggerà una virgola di luce in cielo. E tra domani e dopodomani, una volta che sarà andata via la notte del dubbio, sarà la notte del destino. Si apriranno le porte dei cieli e calerà la baraka, la benedizione, e quindi finalmente Ramadan Karim. È la solita cosa di buttafuoco. Tutto questo per dire che domani è sabato. Sì, certo, no. Comincia il Ramadan. Quello voleva dire, in realtà. E l'ho detto, Ramadan Karim. E che Mario ha voluto, come dire, tapparsi le orecchie, però ricorda, Mario, ci sono segni per chi vuol guardare. Sono già in piedi, buttafuoco. Guarda. Bolle! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله in onore di buttafuoco un po' di canti che significa in nome di Dio. Sì. Iraq. Cosa sta succedendo? Dobbiamo fare il punto perché la cosa è tragicomica, purtroppo. Succedono cose da matti. Allora, la Siria di Assad ha bombardato le milizie di ISIS in Iraq. ISIS sono le milizie sunnite che stanno mettendo a ferro a fuoco il nord ovest dell'Iraq. Il primo ministro iracheno al-Maliki, in un'intervista esclusiva ieri alla BBC, ha detto che i raid aerei di Assad sono benvenuti. Ora, attenzione, tutto questo accade mentre, o accadeva mentre Obama chiedeva al congresso mezzo miliardo di dollari per al-Maliki. No, per armare i ribelli siriani, quindi quelli contro Assad. Quindi al-Maliki ringraziava Assad. Obama è la prova che gli americani capiscono tutto di politica estera. Mi sembra la miliardesima prova. È una cosa pazzesca, sta procedendo tutto alla rovescia. Faccio un riassuntino, mal di testa, prendete una aspirina perché ci vuole. Allora, Obama è nemico di Assad e amico di al-Maliki, che a sua volta, al-Maliki, è amico di Assad. E, udite udite, preparatevi, capolavoro assoluto della Casa Bianca, al-Maliki è pronto a chiedere i raid aerei di Mosca. Vai! Come dicevamo, il gigante, senza fare una mossa apparente, esatto. È Putin. Si è preso la Crimea, sta fermo, arriva tutto lì. Tanto fa tutto Obama, anche Obama. È una cosa, guardate, non ho mai visto niente del genere dopo tanti anni, però pazienza. Andiamo da altre parti? Quello che diceva Romano l'altro giorno. Esatto, che diceva il bravo Sergio Romano. Allora, andiamo da altre parti, perché io segnalo che in Giappone la politica di Shinzo Abe offre questi numeri. La disoccupazione in maggio, il dato è uscito poco fa, è scesa al 3.5%. Ripeto, la disoccupazione in Giappone è del 3.5%. Confrontatela con tutti i numeri dell'Europa, dell'Italia, della Francia, della Germania, di chiunque, e traete le vostre conclusioni. L'indice dei posti disponibili in Giappone è disponibili, quindi posti di lavoro per chi fa l'applicazione, come si dice, è il più alto degli ultimi 20 anni. Quindi il Giappone oggi è vicino, quasi, al regime del cosiddetto pieno impiego. E quindi big in Japan. Con la nostra Sara Tardelli, la quota rosa. Noi vogliamo una speranza per vivere domani, e questo è il rap prestato a Gomorra la serie, scritto da il rapper ovviamente Lucariello e Dantò. Lucariello, buongiorno, ciao. Buongiorno. Guardando la serie, sembra che non ci sia più un granello di speranza, ma è così anche nella realtà? Ma in realtà io credo di no, credo che la serie voglia rappresentare una fotografia del male assoluto che esiste a Napoli, ma come esiste in tante città del mondo. In realtà Napoli è una città piena di speranze, piena di voglia di cambiare. Ci crede? Non ho capito. Ci crede Napoli al cambiamento? Ci crede e penso che non abbia altra scelta che credere al cambiamento. Lucariello, sei un rapper, l'abbiamo detto, un artista, però lavori da anni con i ragazzi di Napoli, che è la tua città, e usi la musica per trasformare il loro malessere in anticorpi contro il disagio e il degrado. Ma Gomorra non rischia di innescare un effetto emulazione? Ma io non credo, perché in realtà le cose che vengono raccontate in Gomorra magari sono delle novità per le persone che vivono lontano da Napoli, ma in realtà per i ragazzi che vivono qua sono dei meccanismi, delle cose che già conoscono, quindi non è un incentivo, qualcosa in più, voglio dire. Poi bisognerebbe cancellare tutti i gangster movie della storia, altrimenti saremmo tutti quanti degli Scarface. Senti, ma perché hai scelto il rap come genere? Ma io credo che il rap sia uno strumento molto diretto, un modo diretto, chiaro per dire quello che si pensa, quello che si sente. Oggi diciamo che è un gran giorno, no? Per te, perché escono sia la canzone che il video che hai fatto con Caparezza, Fore Cacapa, cioè? Fore Cacapa è un po' un grido contro questo tempo, dove sembra che tutto giri al rovescio, ovvero dove i pazzi in realtà sono quelli che sono considerati i saggi e i sani, invece i saggi sono considerati pazzi. È un po' un inno a questa grande follia. Senti, allora grazie, e facciamo sentire Fore Cacapa. Grazie a voi. Vince, abbattete se non vince, un stato da foto che spicce, tu hai fatti capire ricce, rincelli in da sticella, dice da ricetta e quando a genia su passata, per galere e manicomio, ma serio me ricovere, senza stereo né microfono, ovvero te vi che povera, tessera non so monito, che corpo che si muove in di porno, voglio adore. E tanti auguri a Lucariello, bravissimo. Salamino. Salamini di Marina oggi. Allora, la Marina, intesa come Marina Militare, perde un siluro e lo ritrova un bagnante a Ginosa Marina nel Tarantino. È un siluro lungo 2 metri, è stato sganciato da un elicottero della Marina Militare che avrebbe dovuto recuperarlo. Pare sia un'esercitazione di routine, assicura il comando marittimo, quindi è normale che si perda un siluro, un po' come l'apologo del topolino di Catania quando cadeva dal tram e dice che fai, è caduto, no, io sempre così scendo, e quindi è sempre così, è che così, no, un missile si deve perdere. Quante volte abbiamo cercato su Mare Magnum, sulla libreria online, i libri di Antonio Trizzino, no? Navi e poltrone, oppure fa duopo citare oggi, recitare il verso di Beppe Schiera, che diceva: una nave corazzata si scontrò con una pignata e restò ammaccata, e una nave carica di mine l'hanno inseguita a colpo di tappine. Detto ciò, è sempre la solita storia: affidarsi ad un ricordo. Cito Almirante: non rinnegare, non restaurare, però qui i sommergibilisti ci stanno. Mar, il vasto mar, ridendo in faccia a monna morte dal destino. In omaggio ai mitici maiali, sai Giovanni, c'era una volta uno che era un grande lanciatore di missili, e Peppino Ciarrapico come disse: sì, però quando sganciava gli assegni a vuoto. I pigs. Mix 24. Le non va? Bolle, va bene. E io aspettavo. Arrivano le bolle, tu ti sei messo in attesa, in lista d'attesa. No, ma vi dico la verità, io mi stavo godendo la cosa dei giochi senza frontiere, me lo rimandi per favore. Bravo. Ma anche un po' di più, così sentiamo che cosa evoca, se no non si capisce. Era la sigla di Giochi senza frontiere, lo diciamo. Così, un assaggino. Lo sai che è un programma inventato da De Gaulle? Non lo sapevo. Giochi questo. Senza frontiere, è stato inventato da De Gaulle per unire i popoli d'Europa. Vedi, il generale inventava programmi, almirante voleva fare l'attore. Adesso l'euro e invece lui i popoli. Era una destra creativa, poi è arrivato un po' di tutto. Ma pazienza. Allora, l'abbiamo presa così stamattina. Volevo solo dare un po' di conticini su quello che sta succedendo in Europa, sulla Commissione, eccetera. Vabbè, in Europa David Cameron ha perso, questo deve essere chiaro a tutti, la partita per stoppare Juncker. Angela Merkel ha confermato il candidato dei popolari alla presidenza della Commissione Europea e Renzi e Hollande quindi si sono allineati alla Germania sperando, forse lo ottengono, vedremo questo, di ottenere un programma più flessibile sulle regole di bilancio. Il vero tema però è un altro, che tutta questa roba ha isolato Cameron, ma certo. in patria lo mette in grande difficoltà nel Regno Unito. Ricordo a tutti che nel 2017 si tiene un referendum per decidere se il Regno Unito deve restare nell'Unione Europea. O meno. Non è già nell'eurozona, se esce dall'UE è fatta. Tieni presente che gli inglesi sono forti contributori del bilancio europeo, quindi c'è un problema di denaro. Sarà un bilancino più piccolo, canzoniere. Quando io ero in età da marito, scoppiò la Grande Guerra. Ci furono 600.000 morti e 300.000 invalidi. Alle ragazze di quel tempo venne a mancare 1 milione di probabilità di sposarsi. E 1 milione è 1 milione. Non credo di ragionare da folle se penso che uno di quei morti avrebbe potuto essere marito. Giusto, diceva l'altra sorella, giusto. Eri molto graziosa al tempo della guerra. Si chiamavano Rosa, Barbara e Lucia e si amavano teneramente sino al punto che ciascuna, incapace di pensare la più piccola bugia per sé, mentiva volentieri per far piacere all'altra. E tu, Rosa, saresti ora moglie di un colonnello. E questo perché una sera del 15, rincasando tutte e tre per una stradetta buia, pare che fossero seguite da una figura alta che mandava un suono di speroni e di sciabola. No, il capitano andava per fatti suoi. Ammazza un romanzo. 800 24 00 24, 349 238 6666. No, c'è un aggiornamento in sede europea. Cameron sta picchiando durissimo, è appena arrivato in Belgio e ha detto: Juncker è la persona sbagliata. Io perdo, ma voglio che si sappia che Juncker è sbagliato. Intanto, il 20, guerra in Europa. Il 27 giugno dell'80, 19 dell'Italia, con 81 persone a bordo, diretto da Bologna a Palermo, esplodeva in volo. Ecco, a sorpresa, nel 2007, il presidente Cossiga, intervistato in un programma radiofonico, diceva questo. Per quanto riguarda Ustica, io credo che sia stato un attentato fallito da parte di un aereo delle potenze NATO, né italiano né americano, ad un aereo che si riteneva portarsi il colonnello Gheddafi. La realtà è che il colonnello Gheddafi doveva recarsi in Jugoslavia, ma il nostro servizio segreto militare, il CISMI, guidato dal generale Santovito, lo avvertì che poteva essere oggetto di un attentato. La puntata di Marco Melega è raccontata come sempre da Marina Milone, che in chiusura intervisterà anche Daria Bonfietti, la presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime. Andrà in onda dopo il giornale radio. Intanto, professor Doglio, mi sente? Buongiorno. Professore, buongiorno. A proposito di mercato dei media, è appena capitato l'accordo sui diritti del calcio 2015-2018. Oggi 8 squadre, le squadre maggiori, a Mediaset, sul digitale, l'intero campionato su satellite a Sky. È giusto così? Era un equilibrio da trovare? Beh, diciamo che è quello che è oggi, quindi sostanzialmente si ripropone. Non è cambiato nulla. 2015-2018 la stessa situazione, lo status quo. La Lega incassa qualcosa in più, a occhio circa il 15%, molto meno di quello che prevedeva di incassare fino ieri mattina. Beh, 150 milioni in meno, però sempre 900 milioni mi pare, no? Grosso sì, modo. Diciamo che in questo modo il campionato italiano va a valere qualcosa di più di prima e quindi si allinea ai grandi campionati europei che valevano già di più dal punto di vista dei diritti televisivi. Il meccanismo con cui ci si è arrivati è francamente un po' imbarazzante, talmente complicato che non si riesce neanche a spiegarlo. a tuttora noi non sappiamo per certo se davvero l'esito sarà quello votato dal Consiglio di Lega, perché in realtà è sospesa l'ipotesi che il famoso lotto D possa essere trasferito da Mediaset a Sky attraverso un'operazione di sublicenza. Insomma, non è una bella esibizione, è la prima volta che la Lega gestisce con un bando di gara a norma europea la questione dei diritti sportivi, e capisco che la prima volta si può sbagliare, ma quando si ha un consulente che costa pare 30-40 milioni, se l'operazione, insomma, non si dovrebbero fare. Intanto, professor Doglio, un attimo, Nunzio da Catania. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, dica, hai indovinato il canzoniere? Da Catania è troppo sì, Don fare. Giovanni in Sicilia di Brancati. Giusto, Feltrinelli. Feltrinelli per lei. E nel frattempo anche Mirella Zanon. Senta, ma l'autografo, vabbè, il vostro autografo lo posso avere? Certo, vedrà che Buttafuoco glielo manda, glielo spedisce. Noi da Catania era facile indovinare. Appunto, non vale. Sono scelte campanilistiche, va bene. Professor Doglio, lei l'aveva indovinato? Anche No, perché come al solito io sento malissimo. Ah, professore, che noia. Attraverso il telefono, non capisco quasi niente, se non quando mi chiamate. Vabbè. Mi dica allora le ultimissime. Ah, niente, le ultimissime sono quelle di cui stavamo parlando prima, insomma, un esito secondo me discutibile di questa gara d'asta. Io prevedo, mi sbaglierò, non sono un legale, che ci saranno dei ricorsi. A livello europeo? No, ricorsi a livello della gara nazionale, perché è stata fatta cioè, una... Cioè tra Sky e Mediaset qualcuno... Ma neanche tanto tra Sky, io per esempio se fossi il famoso John Malone di cui abbiamo parlato, più volte, avrei qualcosa da ridire sul fatto che nel pacchetto in cui io ho fatto la terza offerta utile, quello che ne ha fatto una di 10 milioni superiore a me, ma è la terza di rispetto agli altri, vince lui. Cioè, non lo so, quando si fanno le gare d'asta si accetta il principio che chi offre di più vince, non che chi offre di più poi entra in una logica di negoziazione con qualcun altro per scambiarsi, anche se in maniera trasparente, i pacchetti. Non è bello, insomma, io non voglio arrivare però, a fare se è trasparente, sulla mancanza se è trasparente del diritto in Italia, ma certamente, come al solito, si fanno le regole e non si rispettano. E questo non è un bel segnale, anche in chiave europea. Grazie, professore.